Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Paar Vorsprung durch Technik, Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Boris Becker, Himmel, boom, boom. Ich bin ein Berliner. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla come sempre è Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna. Ci abbiamo messo un po' dall'ultima puntata per tornare in diretta. L'ultima è stata sul Line Check Festival e dal giorno dopo quella trasmissione abbiamo iniziato ad ascoltare un disco che usciva esattamente quel giorno, e quel disco è Rest di Charlotte Gainsbourg, e ne parleremo in queste quasi due ore. È stato un lavoro molto lungo, anche quasi forse che non voleva finire, ma doveva finire ad un certo punto. E a differenza di come abbiamo sempre fatto in passato, dove tradizionalmente il primo pezzo che passiamo è il pezzo di apertura dell'album di cui parliamo, non potevamo che iniziare da quello che c'è stato prima e la premessa a tutta l'esistenza, non solo proprio fisica nel mondo di Charlotte Gainsbourg, ma anche artistica, e quindi per forza. Perché non si può non sapere che Charlotte nasce il 21 luglio 71, un po' dopo, qualche mese dopo di me, a Londra, figlia di Serge Gainsbourg e Jane Birkin, uno monumento musicale francese, provocatore, innovatore. E lei, definita, lei ha dato il via alla cosiddetta categoria delle ninfette, giovane, esile, sbarazzina, simpatica e sexy allo stesso tempo. Inizia la sua carriera giovanissima, 17 anni, si sposa anche abbastanza presto con il compositore John Barry, compositore di tutte le colonne sonore dei film di Bond, da cui appunto ha una figlia nel 1967, Kate. Nel 68 incontra Gainsbourg, si innamorano e inizia questa storia che ha dato vita a questo pezzo che stiamo ascoltando, il mitico e scandaloso Je t'aime non plus del 69, e anche altre canzoni famose, nonostante appunto la loro separazione. Poi dopo, nel 1980, lui continua a scrivere per lei, come aveva fatto in passato per Brigitte Bardot e altre voci femminili francesi. E quindi non si può prescindere dall'unione di queste due persone e dalla pesante eredità che è caduta sulle spalle della figlia Charlotte, appena nata, insomma, sotto i riflettori. Questo è un altro pezzo che abbiamo scelto, 69 anni erotiques. De leur lit par le hublot. Il connubio artistico e umano di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Dicevo, Charlotte sotto i riflettori da sempre, appena nata, ovviamente tutta l'infanzia, tutta la vita giovane in famiglia viene vissuta insieme alla sorellastra, tutti la chiamano la sorellastra, Kate Barry. Ma ovviamente, se ci vivi tutta la tua vita, il dettaglio di chi sia il padre biologico è secondario. La famiglia era Serge, Jane, Kate e Charlotte, e quindi un legame fortissimo. E ovviamente le luci dei riflettori, la vita mondana, i genitori che andavano sempre a bere, a ballare di notte, le bambine che li vedevano ritornare la mattina quando loro andavano a scuola. Ma nonostante ciò, Charlotte ha sempre mitizzato la sua infanzia, nonostante Kate diceva ma avevamo avuto un'infanzia di merda, ma non è vero che era così meravigliosa, non li vedevamo mai, anche le vacanze in Bretagna, perché Serge aveva paura del volo, quindi andavano sempre loro casa in Bretagna, anche le vacanze facevano cagare. Ma invece il ricordo che ne conserva Charlotte è meraviglioso, anche la parte che le persone potrebbero criticare, ovvero il fatto di essere stata proprio gettata nel mondo del lavoro, potremmo dire, sia nella musica che nella recitazione, appunto, dai propri genitori. E comunque noi adesso siamo qui per parlare del bellissimo nuovo album Rest, e adesso a questo punto, dopo questa piccola premessa doverosa, partiamo davvero con il primo pezzo che apre il disco. Si chiama Ring Ring Roses, e davvero se ci si mette ad ascoltare quest'album come quando ci si siede in una poltrona di cinema a guardare un film, è proprio come la progressione dei pezzi segue come lo dispiegarsi di una storia, con dei crescendi anche drammatici e narrativi. Ring Ring Roses. Questo pezzo, corredato da un video come diversi altri pezzi del disco, parla di prime volte, il primo bacio, il primo figlio, e racconta un po' il ciclo della vita che finisce nella morte, ed è intervallato da una filastrocca infantile famosa fin dall'Ottocento in Inghilterra, Ring Ring Roses, una specie di girotondo fatto dai bambini. E c'è questa alternanza che è la cifra di questo disco tra il verso in francese e il ritornello, perché proprio la musica ovviamente cambia e l'inglese si adatta al ritornello come il francese si adatta al verso, ritornello più arioso, più melodico. E invece anche il francese è la lingua usata per dire, per esprimere le cose più crude, più brutali, più violente, più tristi. E si può sentire sempre l'eco, a me ricorda molto la musica da film francese. E dicevo che il lavoro è stato lungo, perché iniziare a studiare, a conoscere Charlotte significa non solo la sua vita, la sua produzione artistica, che ovviamente non bisogna dimenticare anche la sua attività d'attrice, soprattutto negli ultimi anni col suo connubio artistico con Lars von Trier, ma significa anche immergersi un po' in una scena musicale che è quella francese e dell'eredità di Gainsbourg, e anche l'influenza che ha avuto su tanti musicisti contemporanei e tanti che poi anche hanno collaborato con lei nei suoi lavori precedenti. E questo è un disco di prime volte, perché per la prima volta lei supera l'imbarazzo, la paura, il tormento di usare la sua lingua, perché diceva io non potevo rischiare di non essere all'altezza della scrittura di mio padre, ma se ne frega, parole letterali, perché deve esprimere per forza, per necessità, il suo dolore, il suo lutto in seguito alla morte, accidentale, suicidio, non si sa, del dicembre 2013, sua sorella Kate. Ritornando a questo pezzo e al video soprattutto, appunto anche i video, la direzione dei video, l'art direction dell'album, la fotografia e il disegno sono prime volte per Charlotte, in questo, come in altri video, figurano i suoi figli. Infatti il protagonista maschile di questo video è suo figlio Ben, primogenito ventenne, e anche si usa un po' la somiglianza tra i due per questo video, che niente, se lo vedete lo capite. Ma appunto torniamo all'essere stata data in pasto all'industria musicale, creatura di suo padre, con questo pezzo Le Mani in Sesto, che nell'84 fece assolutamente scalpore. Non era un pezzo a firma, diciamo, di Charlotte, ma era contenuto in un album del padre, Love on the Beat dell'84. E c'è questo gioco di parole, di assonanza tra incesto al limone e un zest de limone, ovvero una scorza di limone, un aroma di limone. Ovviamente Gainsbourg venne accusato di glamorizzare la pedofilia e l'incesto anche per colpa del video in cui appunto i due erano distesi in un letto, lui a torso nudo con solo i jeans, lei con una camicia di jeans ma in mutandine bianche. Ma lei non rimprovera niente a suo padre, a parte che non aveva vissuto la controversia sulla sua pelle, diciamo, perché subito dopo parte, va a studiare in un collegio per suo desiderio e quindi non viene, diciamo, travolta dalle polemiche, ma lo riconosceva semplicemente per quello che era, un grande gesto d'amore da parte di suo padre, e è assolutamente ricambiato. E anche un po' capire che quello che cercava il padre non era in lei il saper cantare, anzi forse quello che lo toccava, di rimando tocca a lei, è questa ricerca dell'imperfezione, di questa voce esile che si spezza, perché ovviamente lei sa benissimo di non avere una voce forte, ma che spesso si ripiega in un sussurro, tant'è vero che un album si chiama Stage Whisper. E come se non bastasse, nell'86 Serge proprio fabbrica un disco per lei, Charlotte Forever, 1986, e anche un film dove appunto si racconta di questa storia quasi incestuosa tra un padre e una figlia. Ma dicevamo anche il debutto nel cinema, questo per colpa della madre invece. Debutta nell'84 con Parole Musique, in cui interpretava la figlia di Catherine Deneuve, e l'anno dopo il suo terzo film dell'85, Le Fronte, come protagonista, la traduzione italiana Sarà perché ti amo, perché la colonna sonora c'era Sarà perché ti amo, vince il primo César, ovvero l'Oscar francese, come miglior promessa femminile. Quindi insomma una bella partenza. E studiare Charlotte significa anche studiare un po' la galassia Birkin-Gainsbourg, compagni, mariti, figli, fratelli, fratellastri, tutti più o meno artisti, mentre lei continua la sua attività di attrice. Poi nel 91 il grande trauma, la grande prima tragedia, muore Serge Gainsbourg per un attacco cardiaco a 62 anni, e questo pezzo, che appunto si è sentito dopo il primo, sembra appunto come una nuova scena di un film dove capiamo un po' di più di quello che succede. Si tratta di In Line With You, in cui letteralmente lei racconta senza pudore, lei che è sempre stata super riservata anche relativamente a questo grandissimo lutto della perdita del padre, parla appunto del momento del ricordo in cui l'ha visto morto sul letto, il viso di cera, la gamba che usciva fuori dal letto, e lei che si distende accanto al suo corpo con questo puro amore di figlia. E il pezzo è Line With You, è tra l'altro il quarto video sempre a sua regia, che è stato diffuso per ultimo, il più recente, il 1 dicembre, e girato nella famosa Rue Verneuil, dove era la casa d'infanzia, la casa di Gainsbourg, era rimasta proprio un museo, non è stato più toccato niente, dove appunto ha vissuto l'infanzia. E Charlotte dice: io non ho mai potuto esprimere il mio dolore, il mio lutto, non l'ho potuto mai elaborare e vincere perché ero sommersa all'epoca da quello degli altri, da quello della nazione. Io dovevo stare a sentire il dolore degli altri, la gente che mi raccontava di quanto fosse grave per loro la perdita di mio padre. E io per reazione mi sono richiusa in me stessa, non ne ho mai potuto parlare, ma appunto adesso sulla spinta purtroppo anche della perdita della sorella ho deciso di fare questo pezzo, perché appunto a differenza dell'impossibilità di parlare della perdita del padre, invece quando è morta Kate lei non era assolutamente ossessionata, aveva assolutamente il bisogno di parlarne a tutti, di parlarne sempre con un coraggio e una mancanza di pudore che era strana, insomma, per come la gente l'ha sempre vista e conosciuta, e senza neanche tanto preoccuparsi se questo suo modo di esprimere i propri sentimenti avrebbe avuto una ricaduta negativa sulla sua famiglia. Ci sta pensando solo adesso, ma appunto è stato un lavoro assolutamente necessario e fondamentale, e che ha dovuto richiedere anche una fuga fisica, una fuga negli Stati Uniti, perché il lavoro sul disco era già iniziato, stavano prendendo forma delle cose, ma nel momento in cui c'è stata questa tragedia della morte di Kate è diventato il centro di tutto. Ma ne parleremo, e intanto adesso siamo arrivati a i Pulp, This Is Hardcore, Jarvis Cocker. Anche loro hanno subito, tra virgolette, in modo sostanzioso l'influenza musicale Serge Gainsbourg, per esempio Russell Senior, che ha lasciato i Pulp nel 97, subito dopo nel 98 ha formato questo gruppo Baby Birkin, pubblicando un disco Classe X dove erano tutte cover di Birkin, Gainsbourg e Bardot, e io ce l'ho dal 98. E abbiamo scelto invece questo pezzo, This Is Hardcore, perché ha anche questo incedere molto cinematografico, e ne parliamo perché Jarvis Cocker è stato uno degli artefici del ritorno di Charlotte alla musica. E parlando delle prime volte, lei dice che lei vuole far durare le prime volte il più possibile. Infatti dopo la prima volta, il primo disco con suo padre, sono passati 20 anni prima che ne facesse un altro. Tornando ancora sempre alla biografia, che mai come in questo caso non si può separare dalla produzione artistica, sia musicale che cinematografica, nel 91, subito dopo la morte del padre, incontra Ivan Attal, suo attuale compagno, con cui ha fatto 3 figli, Ben, Alice e Joe, senza mai sposarsi. Ed è anche questo un tema che ritorna nell'album e nel primo singolo che è stato diffuso e che ascolteremo tra poco. Insomma, la carriera di Charlotte procede sempre con questo atteggiamento di essere diretta, fare quello che le viene chiesto di fare, anche un po' per compiacere, insomma, il milieu artistico di amici e parenti che la circondavano, in modo quindi non molto serio, finché invece non decide di farne proprio la carriera. Il cinema diventa la sua carriera nel 99, decide, forse anche perché aveva vinto un altro César come attrice non protagonista, ed è anche nella musica che lei si affida agli altri, nel senso lei va sempre a cercare musicisti che ama, musicisti che ammira, che possano scrivere per lei, che possano soddisfare questa sua esigenza di fare musica, che è molto più personale di quella di fare cinema, perché comunque veramente quando fai cinema decidi poco o niente. E quindi anche grazie all'ascolto di Glory Box, Dummy, The Portishead nel 94, riconosce appunto questo grande amore per la musica e decide appunto poco a poco, perché poi passano gli anni, perché ovviamente tutto deve essere conciliato con la carriera di attrice eccetera. Non dimentichiamo anche testimonial di molte marche, di Yves Saint Laurent, di molti marchi del lusso, tra parentesi, se uno cerca Birkin su Google viene fuori solo la Birkin Bag, di cui io non conoscevo l'esistenza, una borsa di super lusso di 10-15 mila euro l'una. E quindi una scelta che può risultare banale è quella degli Air. E quindi nel 2006 nasce 555, detto anche Sansankansank, perché nel pezzo omonimo viene anche detto in francese. Questo pezzo di Pulp è meraviglioso. Quindi Air per la musica, e viene scelto o chiamato Jarvis Cocker, che scrive praticamente tutti i testi con anche un aiuto, una collaborazione da parte del nostro caro Neil Hannon, Divine Comedy. Ed è per questo che ascoltiamo appunto la title track, seguita da quello che fu il primo singolo, quello scritto anche da Neil Hannon, The Song That We Sing. Molto francese, molto adatto a Charlotte Gainsbourg, con la produzione tra l'altro di Nigel Godrich, di Radiohead. Che prima, insomma, nei vent'anni precedenti ci fosse stata un'estraneità totale dalla musica, partendo da Lemon Incest, che comunque c'è da dire che Gainsbourg era molto molto attento ai suoni della contemporaneità. All'inizio di Lemon Incest a me mi suona come Radio Gaga, e anche un altro pezzo poi di Charlotte Forever, e la Stick all'inizio sembra My Sharona, ma a parte ciò, negli anni successivi è stato un duetto con sua madre per, diciamo, un'opera di beneficenza, e poi anche una richiesta insolita da parte di Madonna, che le chiede di poter usare la sua voce come intro a What It Feels Like For A Girl. Forse la gente non lo sa, ma è parte del dialogo di un suo film, Savant Garden, è all'inizio del pezzo, e anche questo insomma le fa tornare la voglia di fare musica. E comunque, anche se ricomincia a fare musica, a parte qualche parola qua e là, qualche frase, la lingua scelta è l'inglese, appunto per la paura di non poter essere all'altezza neanche come cantante e usare il francese. Questo è appunto il primo singolo, The Songs That We Sing, bellissima, co-scritta anche da Neil Hannon, che ha questo inizio un po' così che mi ricorda un po' Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, e poi Le campane di un altro pezzo che è storico della musica francese che ascolteremo tra un po'. Quindi diciamo, dopo questo input venuto dalla richiesta di Madonna, questa passione per i Portishead con cui avrebbe voluto collaborare, un incontro anche con Moby che però insomma non aveva portato a niente, arriva appunto 55. In mezzo ci sono state anche collaborazioni come seconda voce a due pezzi di Badly Drawn Boy dal disco Have You Fed the Fish del 2002, poi anche un duetto con la star del pop francese Etienne Dao, If, definito il padrino del pop francese. Nel 2005 un altro pezzo tratto da un suo film, La Reste L'Autre Part, come era successo anche per il film francese Love etc., di cui aveva cantato la canzone appunto che dà il nome al film nel 94. Ma insomma erano stati pochi e sporadici i salti di nuovo nel campo musicale. E questi suoni di campane in sottofondo mi hanno fatto tornare alla memoria un pezzo che nel suo remix Malpaso Edit è stato popolarizzato ai tempi d'oro del big beat da Fatboy Slim, e noi non mancavamo mai di suonarlo al Cassero di Porta Saragozza. Si tratta di Psyche Rock degli Enfants Terribles, dei loro tempi, della musica elettronica francese della fine degli anni 60, Pierre Henry e Michel Colombier. E la cosa particolare che non sapevo parte anche esibirsi sotto il nome di duo Le Hyper Sound. Questo pezzo qua fa parte invece di tutta un disco che era una musica per balletto appunto del 67, niente un po' di meno che per Maurice Béjart, si chiamava Le Jerks. Électronique de la messe pour le temps présent et musique concrète pour Maurice Béjart. Che anche questo qui è un suono che prima non c'era, poi è stato inventato ed è stato poi ripreso e riprodotto da generazioni di musicisti successivamente. Ma il connubio tra Jarvis Cocker e Charlotte Gainsbourg portò anche ad un duetto tra i due per un pezzo dei Yair. Era l'epoca di Pocket Symphony, uscito subito dopo, ma questo pezzo The Duelist è comparve ai tempi solo nelle edizioni iTunes e Open Disc di Pocket Symphony. È stato recentemente ripubblicato nella raccolta del ventennale della carriera The Year 20 Years, ma noi non lo ascoltiamo perché è un po', insomma, non è un granché. Abbiamo deciso di dare spazio ad altra musica, abbiamo dovuto togliere almeno 4-5 pezzi che avevamo messo in scaletta e siamo rimasti, insomma, sui fondamentali. E quindi dopo Sank 555, a distanza relativamente ravvicinata, 3 anni, ma appunto vista in mezzo all'attività di attrice non è molto, diciamo, è poco più del solito ciclo che separa, insomma, degli album, la produzione di album di un artista. Charlotte si rivolge ad un altro musicista ammirato e che notoriamente ammirava molto, Serge Gainsbourg. Ma facciamo un attimo di sospensione del discorso per arrivare appunto al pezzo, al primo pezzo dei tre, che parla di Kate, a cui proprio lei si rivolge anche questo pezzo. Si chiama appunto semplicemente Kate e ha sempre quest'aura un po' scuro, un po' incombente, un po' minaccioso, un po' triste. E il cantato è sempre in francese, non c'è il ritornello. Ecco, se appunto si ascolta il film appunto, il disco, avendo in mente una pellicola cinematografica, questo pezzo che sottolinea, insomma, l'evoluzione di una storia. Quando succede qualcosa di grosso, la cosa si complica, e la cosa si è complicata molto appunto con la morte di Kate, caduta dalla finestra del quarto piano del suo appartamento. Non si sa tutt'oggi se sia stato un avvenimento accidentale o un suicidio. D'altra parte, Kate, fotografa di moda, che insomma abbastanza apprezzata, che sempre collaborato anche con sua sorella in questa eterna complicità, fin dall'adolescenza aveva problemi di dipendenza da droga e da alcol, e anche questo, l'alcol, viene nominato in questo pezzo. Appunto, impudica Charlotte nel parlare di cose di famiglia, cose riservate, anche se appunto la sua vita familiare è sempre stata sotto gli occhi dei riflettori. È stato per questo che, dopo la morte di Kate, quando già il lavoro su questo disco era iniziato, tutto si blocca e tutto appunto viene interrotto e poi informato da questa perdita. Nell'estate del 2014 tutta la famiglia, quindi Charlotte, Ivan e i figli, si trasferiscono a Manhattan, ed è stata proprio una necessità, non per guarire, non per curarsi. Lei ripete nelle interviste: questo disco non è terapeutico, non è che adesso sto meglio, la mia pena si è alleviata, ma anzi ho provato anche piacere nel parlare della mancanza, della pena, della sofferenza. È stata proprio una necessità, non per guarire, ma proprio semplicemente per continuare a respirare e a vivere, perché ovviamente tutta Parigi era un ricordo perenne, e questa distanza a New York, essere a New York, rendeva questa tragedia, questa morte più irreale. Ma dicevamo, raccontare insomma della storia della famiglia Gainsbourg significa anche parlare delle varie famiglie parallele, famiglia allargata veramente, quella di Gainsbourg, Birkin e poi Dwallon. Sì, perché quando nel 1980 finisce la storia con Serge, Jane Birkin sposa poi il il regista francese Duallon, da cui nell'82 con cui nell'82 fa una figlia, Lou Duallon, anche lei cantante, modella, attrice, e cantata appunto esattamente due album, Places nel 2012 e invece uno più recente del 2015, da cui adesso ci stiamo ascoltando Good Man. L'album si chiama Lay Low e devo dire che, a differenza di Charlotte, lei la voce ce l'ha. C'erano anche altri pezzi che avremmo potuto mettere dei suoi album, Question and Answers, Angels and Devils, mi piaceva, però abbiamo deciso di mettere invece questa Good Man. E quindi Jane Birkin sposa Jacques Dollon, e quindi insieme a Kate Charlotte ha un'altra sorellastra, comunque aveva un rapporto strettissimo con cui viveva, perché poi ovviamente dopo la separazione la figlia era con la madre, quindi le tre sorelle, sorellastre, le femmine del clan Birkin erano insieme, mentre Charlotte andava dal padre appunto nella casa di Rue Verneuil dalle pareti nere solo il fine settimana, e dove l'attività più frequente era l'epoca d'oro del VHS, era affittare videocassette soprattutto di film d'orrore. Ed è questo che musicalmente informa Rest, nel senso che l'indicazione musicale per il produttore co-creatore di questo album, non l'abbiamo ancora nominato, Sébastien Achoté, è stata appunto una lista di colonne sonore soprattutto di film horror. Perché appunto lei va a cercare gli artisti, i produttori, i musicisti con cui lavorare, e l'ha fatto con Sébastien, l'ha fatto già a partire dal 2012, inizio 2013, fornendogli proprio una lista di musica, soprattutto musica di cinema, di colonne sonore, abbiamo detto il film horror è quello che ha informato di più la sua infanzia. Le racconta sempre come evento scatenante traumatico il fatto che sua madre l'abbia portata a 4 anni a vedere Lo Squalo a Londra al cinema, e lei è rimasta assolutamente turbata. Ma poi anche film come Psycho, poi film visti col padre tipo Texas Chainsaw Massacre, ma anche La morte corre sul fiume, che ha questo senso appunto di minaccia incombente, oppure Psycho. Ma anche della musica classica, Bela Bartok, e la musica elettronica disco di Moroder. E il Côté disco viene a volte insomma fatto notare come questo album abbia questi due toni, questi registri, anche questa contrapposizione assolutamente voluta tra temi grevi e musica invece up tempo. È uno appunto dei primi esempi di questo connubio tra Sébastien e le sue origini come DJ, enfant terrible dell'electro più violenta della Headbanger Records, di cui fanno parte Justice, Mr. Oiseau, che poi è appunto una sussidiaria della Because Music, che invece appunto è l'etichetta di Charlotte. Uno dei primi prodotti che è stato diffuso, il primo pezzo, il primo video molto particolare, anche appunto abbiamo detto come tutti i video siano, ne mancano ancora due, c'è questo accordo per 6 video con la Apple Music, siano stati diretti da Charlotte, e c'è anche questa cosa che ritorna del boucle, ovvero del loop, ovvero di queste frasi musicali circolari, cicliche, che si ripetono, e sempre con questa tonalità discendente a cascata in questo pezzo come in altri pezzi. Questo appunto, adesso lo diciamo, è Deadly Valentine. È stato il primo pezzo che è stato diffuso, il primo pezzo che ho sentito, me ne sono innamorata, sperando che anche il resto del disco mi piacesse abbastanza poter fare una trasmissione, e così è successo, pure troppo. Appunto, suono Moroder, I Feel Love, un po' 2001 di Odissea nello spazio, un po' Jean-Michel Jarre. E poi il video. Allora, il tema della canzone, che è tutta in inglese invece in questo caso, è appunto ripetere questi voti nuziali, cioè questo pensiero fisso del matrimonio, perché questo disco non parla solo della perdita delle persone care, ma anche dall'amore per il suo compagno, per i suoi figli. E quindi c'è la ripetizione di quei voti nuziali, tipo finché morte non ci separi, anche in forma anche abbastanza arcaica, obsoleta, contrapposta invece a questa musica così trascinante e dinamica. E il video, secondo me non si può distinguere dalla canzone, il video, c'è questa corsa continua, questa corsa di tutta la vita di una coppia che si incontra fin da bambini, 6-7 anni, poi adolescenti, poi adulti e poi anziani. La bambina e l'adolescente sono Joe, 6 anni, e Alice, 14 anni, figlie di Charlotte e Ivan. La donna adulta è ovviamente lei, e il suo compagno è Dev Hines, Blood Orange, bravissimo ballerino ed amico, sono conosciuti, si sono frequentati, lei spesso, quando le chiedono di suonare, diciamo, una playlist dei pezzi che le piacciono, mette sempre Best to You di Blood Orange, tra l'altro cantata da Empress Off, che noi abbiamo già sentito in trasmissione, ma non la ascoltiamo. Anche una persona, un'amica a cui si è rivolto anche nella produzione di questo disco per avere la conferma, sempre il controllo che stesse andando nella direzione giusta. Ed è lui, con lui, che corrono e ballano, e poi la coppia anziana che arrivano finalmente in chiesa, e in un incontro per la Red Bull Music Academy una del pubblico ha chiesto: ma perché non hai chiesto a tua madre di fare la donna anziana? Sarebbe stato meraviglioso, sarebbe stato perfetto, ma lei non la voleva disturbare perché aveva i suoi concerti, perché comunque doveva volare a New York, e non gliel'ha chiesto. Ma di questo pezzo si può sentire, il 10 novembre, una settimana prima dell'uscita del disco, è stato diffuso un remix dei Soulwalks. Di cui abbiamo fatto un nostro taglia e cuci, tra l'altro. Soulwalks, io l'ho detto anche a trasmissione dedicata a loro, secondo me hanno le loro librerie di suoni. Secondo me la blueprint per questo remix è stata Evan Sant, il pezzo bellissimo fatto con Chloe Sevigny, secondo me, però sono sicura. Ho già fatto un mix tra le due. We'll be right back. sfuma il remix di Deadly Valentine di Rest, primo singolo diffuso di questo album, e appunto per parlare del background di Sébastien Achoté e anche per appunto il fatto di come certi suoni siano un po' la firma, il marchio di fabbrica, abbiamo voluto mettere una breve citazione perché l'abbiamo suonata non molto tempo fa. Si tratta di Safe and Sound di Justice, tratto da Woman ormai dell'anno scorso, perché appunto anche la linea di basso grasso funky così è quello che accomuna questi pezzi, anche il suono del Headbanger Records, abbiamo detto. E Sébastien è stato appunto cercato, convocato a casa propria da Charlotte, e lui, diciamo che il primo incontro non è stato proprio il massimo. Lui si è presentato ubriaco, e per esempio all'incontro al Red Bull Music Academy che citavo poco fa doveva esserci, non si è presentato, per cui quando le hanno chiesto farai dei concerti dal vivo, lei ha detto dovrei farli con lui, però se fa come adesso che non si presenta sarà difficile. Comunque si presenta proprio così arrogante, dice tu devi fare quello che dico io dico che tu devi suonare, devi cantare come nel primo disco fatto da tuo padre per te, e a queste condizioni lavorerò. Ma dopo la sua versione è no, perché sapevo che era la cosa giusta da fare, che avrebbe funzionato. E quindi lei dà tutte queste indicazioni musicali, musica classica, soprattutto musica di film horror, perché c'è questo riflessione sull'infanzia, l'infanzia passata con sua sorella, poi la perdita del padre, e poi questo rapporto quasi trentennale con Ivan, e poi averci fatto tre figli, insomma, che figura in questo disco, che però non è un disco triste, non è un disco della depressione, ma neanche della guarigione, però è semplicemente la presa d'atto di qual è il ciclo della vita, e anche la presa d'atto delle proprie capacità anche di scrittura, cosa che non aveva mai voluto affrontare. E arriviamo appunto al secondo album adulto, IRM del 2009, dove, come dicevamo prima, anticipavamo, chiede la collaborazione, l'aiuto di un musicista di cui è riconosciuto, insomma, è risaputo l'amore per Serge Gainsbourg. Si tratta di Beck, era il 2009. IRM, non IRM, ma IRM è Imagerie de Résonance Magnétique, ovvero risonanza magnetica, come il pezzo omonimo che stiamo ascoltando, e che inizia proprio con i suoni della risonanza magnetica. È stato questo il tema che ha informato questo disco, e che fa riferimento da una vicenda personale anche molto traumatica. Ma anche in questo caso lei non ha avuto il coraggio di scegliere lei le parole da cantare, ma si è affidata a Beck, che ha fatto la musica e ha scritto tutti i testi, anche perché lei dice io vedevo quanto fosse facile per lui, quanto fosse immediato ed efficace, perché comunque esprimeva quello che io volevo. È il lavoro di Beck che io, se anche pensavo di mettermici, ho subito abbandonato l'idea di scrivere dei pezzi miei. Dicevamo, l'evento scatenante è stato un incidente nel 2007 di Shidakwa a Miami, apparentemente non grave. Passano i mesi, Charlotte è a Venezia per la presentazione di I'm Not There, film su Bob Dylan, in cui lei interpreta un ruolo, e ha questi tremendi mal di testa, ed è stata proprio sua sorella Kate ad insistere per un controllo medico, e il controllo medico, appunto la risonanza magnetica, rilevò la presenza di un'emorragia cerebrale, per cui viene portata d'urgenza a Parigi ed operata. E da quel momento ha fatto non si sa quante risonanze magnetiche, perché comunque era una cosa rassicurante, che la rassicurava nella sua insomma, paura della morte. Ed è stato questo il tema che ha informato l'album, e adesso dopo IRM ascoltiamo quello che è stato il primo singolo, proprio un vero e proprio duetto con Beck, ovvero Heaven Can Wait. appunto, il paradiso può aspettare, la morte può aspettare, e appunto è ironico, senso amaro, il fatto che è stata l'insistenza di Kate che ha scongiurato il peggio. E quando lei propose questo tema della risonanza magnetica, Becken è rimasto veramente entusiasta e quindi ha concentrato la composizione partendo dalle percussioni, appunto soprattutto nella title track. L'unico contributo di Charlotte a questo disco nel pezzo La Collectionneuse sono pezzi di poesia di Apollinaire, per fare qualcosa di più particolare e personale, però anche in questo caso sempre insomma prendendo a prestito da altri. E questo singolo Heaven Can Wait esce esattamente il 17 novembre, il stesso giorno di uscita di Rest, però del 2009, e a dicembre esce l'album, seguito poi da un altro singolo, Time of the Assassins. Successivamente esce anche un EP di alcuni pezzi registrati live con Beck in uno studio di Hollywood per il Record Store Day, e a riprova dell'amore di Beck per Serge Gainsbourg ascoltiamo la bellissima Paper Tiger di Sea Change 2002. Tutti dicono in questo pezzo Beck campiona Cargo Cult, l'ultimo pezzo di Istvak de Melody Nelson del 71, sempre anche questo disco nato dal connubio amoroso tra Serge e Jane Birkin. Ma invece per me sì, ho conosciuto prima il pezzo di Beck che l'originale. Si tratta proprio di un neanche un omaggio, neanche un tributo, ma quasi proprio di un rifacimento del pezzo di apertura Melody. Continuando di come, parlando di quando Charlotte ha convocato a casa sua Sébastien, lei dice: ma io capisco il personaggio, capisco che la sua arroganza era classica dei più grandi timidi. Lei da timida, anzi si definisce ex timida, perché dice io ormai, insomma, adesso ho 46 anni, io la mia timidezza l'ho addomesticata, insomma mi è anche tornata utile anche nel suo lavoro di attrice. E contestualizzando anche parallelamente la sua carriera d'attrice, gli anni che vanno da 555 IRM sono quelli in cui, come abbiamo detto, Charlotte ha recitato in I'm Not There e soprattutto ha avviato la sua collaborazione con Lars von Trier, con il primo della cosiddetta trilogia della depressione, ovvero Antichrist con Willem Dafoe, con cui nel 2009 vince a Cannes il premio come miglior attrice. Questo suono di Gainsbourg, e poi Beck si rivolge per anche lui, sono il break-up album, il lutto per la fine della storia con Winona. e l'attività cinematografica continua dopo la promozione seguita all'uscita di IRM. Ricominciano le riprese invece di Melancolia, sempre con Lars von Trier, che esce l'anno dopo, il 2011, e invece in questo caso è l'attrice protagonista Kirsten Dunst che vince a Cannes. Ed è appunto a riprova del tributo rework, perché guai a dire plagio, abbiamo voluto attaccare pezzo finale appunto di Melodie, ainsi je déconnais avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement, la voiture dériva et un heurt violent tira soudain de ma rêverie. Merde. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Et comme une poupée qui perdait l'équilibre. Questo pezzo parla proprio dell'incontro in seguito ad un incidente tra la Rolls Royce di Serge, o insomma del suo personaggio, e questa bicicletta guidata da questa ragazzina dai capelli rossi, Melodie Nelson, ovvero Jane Birkin, proprio nell'anno della nascita di Charlotte. Andiamo avanti con l'ascolto di Rest e c'è un altro. Adesso inizia in modo un po' scanzonato questo pezzo, mi ricorda l'inizio di National Express, appunto di Divine Comedy, ma poi prende sempre questa piega cinematografica francese con un ritornello che nel fraseggio, nelle note, ricorda tantissimo i Blonde Redhead. E in questo album, che parla della perdita delle persone amate, del rapporto d'amore, nel rapporto con i propri figli, questo pezzo, I'm a Lie, sono una menzogna, sono una bugia, prende in giro se stessa, il suo essere timida, riservata, sempre trattenuta, sempre limitata, appunto adesso si definisce ex timida, ma in questo pezzo appunto elogia l'imperfezione, anche il fatto che la sua voce sia debole, ma lei appunto ha voluto affiancare una musica più forte e potente, anche per il suo amore per l'elettronica. Lei ha scelto Sebastian appunto perché ama la musica elettronica, ama appunto il loop, la ripetizione, il boucle della musica elettronica, e appunto voleva vedere come sarebbe potuta unire la sua voce, che è debole, con invece una musica più forte, più potente. E elogio dell'imperfezione perché poi appunto, come vi ho detto, se ne frega anche dell'essere più o meno all'altezza del lavoro del padre, della capacità di scrittura del padre. E questo blocco è stato rimosso proprio con la distanza. Andando a New York ha potuto prendere ispirazione poi dai suoi diari personali per iniziare a scrivere i testi delle sue canzoni, anche perché appunto è stato importante l'anonimato che le dava New York, perché ovviamente uscendo per strada a Parigi viene sempre fermata e riconosciuta, quindi grande libertà, e questa grande libertà è stata assolutamente diciamo vissuta nella creazione del disco insieme a Sebastian. You say appunto a New York. C'è anche un po' sfatata questa immagine, questa idea dell'essere artista, perché diciamo che in Francia è una cosa sacra, cioè dirsi artisti, insomma, è una cosa insomma molto delicata, mentre a New York, lei dice, essere artista a New York è una cosa assolutamente banale, assolutamente normale, tutti disegnano, fotografano, filmano, suonano con un proprio gruppetto nel proprio garage, quindi io mi sono sentita appunto di cimentarmi appunto nella scrittura. Ma questo pezzo, che si collega al discorso eredità di Gainsbourg e omaggio o plagio di Beck, è un pezzo sempre contenuto in IRM, l'unico pezzo che non ha scritto Beck, perché è stato lui a proporre a Charlotte di fare questa cover. Si tratta di un pezzo del montrealese, quebecchese, canadese Jean-Pierre Ferland, il pezzo è Le Chat du Café des Artistes, che appunto lei ha rifatto nel disco. Questo pezzo è stato pubblicato originariamente nel 1970 nell'album dal titolo Jaune, e allora qui viene il dubbio, non è che dall'altra parte dell'oceano Serge ha sentito questo pezzo e ne ha tratto ispirazione, oppure era questo proprio il vibe musicale che permeava la produzione musicale francofona di quel periodo? Proprio prima di fare la trasmissione ho detto, ma perché mettere solo la versione originale? Ma perché non ci complichiamo la vita e non ci mettiamo insieme la versione rifatta da Charlotte? Tra l'altro l'arrangiamento fatto da Beck per questo pezzo, secondo me, ha lo stesso timbre, tenore e aura del suono usato per Paper Tiger. E il lavoro fatto da Charlotte per questo album Rest era anche un po' di scappare a eventuali paragoni, ma appunto non era quello poi la preoccupazione principale, perché lei dice, se io canto col registro acuto la gente pensa che insomma ricordano mia madre, se invece parlo col tono basso un po' parlato assomiglio a mio padre, invece adesso io faccio quello che posso, come posso, quello che so fare. Ed è quello che ha fatto per il pezzo centrale in tutti i sensi, anche proprio nella tracklist, nell'ordine. Il sesto di 11 è il pezzo che dà il titolo all'album, è il pezzo che usa questo bilinguismo tra rest, riposa, il riposo che si dà ai morti e il riposo che si dà a se stessi, e rest, resta qui in francese. Prendimi la mano, per favore, non lasciare, non prendere il volo, non scappare, resta con me, non lasciare che io ti dimentichi. È stato questo una delle prime cose che sono state prodotte musicalmente, appunto prima della morte di Kate, Guy-Manuel de Monchristo, ovvero Daft Punk, ha proposto a Charlotte questo loop, questo bucle, questo suono con cui voleva fare qualcosa con lei. E invece il testo è stata una delle primissime cose che sono arrivate dopo la morte di Kate. E dopo aver fatto questo pezzo, il pensiero di Charlotte è stato di chiedere a Lars von Trier di farne un video. Lui non poteva, era impegnato, ma le ha detto: guarda, ti do esattamente le istruzioni di ciò che devi fare. Per ogni parola devi far corrispondere un'immagine, che sia un'immagine d'archivio presa da dei film o un'immagine girata da te, per creare appunto un linguaggio, un vocabolario. E poi invece nei momenti in cui tu non canti ti riprendi nello studio. E infatti il video è così, lei in questo spazio abbastanza, anzi completamente vuoto, sono strumenti, amplificatori, tastiere, sgabelli e anche un materasso buttato per terra. E invece poi invece le immagini sono immagini ripetute per ogni parola di film, anche famosi e riconoscibili, cioè per esempio Le Banlieue Rouge. E la parte in inglese, questa, è una citazione di Walking in the Air, un film, un pezzo tratto, era il tema principale di un corto di animazione di Channel 4, The Snowman. Tra l'altro, coincidenza, The Snowman è uno dei tre film che anche sta portando in promozione in questo momento Charlotte, con Fassbender, tra l'altro è stato stroncato dalla critica. Ma non importa, invece Walking in the Air era questo pezzo di questo cartone del 1982, quindi un chiaro ricordo d'infanzia condivisa con Kate. E veramente l'ascolto è profondamente toccante, e anche una recensione ho letto che può essere anche quasi insopportabile. Quindi insieme ai primi esperimenti di scrittura arriva questo regalo, appunto parte di uno dei collaboratori che vengono sempre citati per questo album, ovvero Guy-Manuel de Monchristo, ovvero metà dei Daft Punk. Ma ritornando alla produzione discografica, dopo il disco del 2009, IRM arriva nel 2011 Stage Whisper. Si tratta di alcuni pezzi sempre fatti con Beck nelle sessioni di registrazione di R.E.M. che non sono finite nel disco, ma anche altre collaborazioni con altri musicisti. C'è un giovane songwriter, Asa Taccone, che non conosco, e poi anche mi sembra James O'Brien del gruppo irlandese dei Villagers. E uno dei pezzi, il primo, scritto invece da Beck, con questo andazzo molto golf rap, è Terrible Angels. Poi Stage Whisper, sì, è un doppio CD, quindi un CD contiene questi pezzi inediti fatti con Beck e con altri collaboratori, e poi c'è un altro CD di esibizioni dal vivo. perché appunto insieme all'attività cinematografica, cioè l'attività musicale, viene presa sul serio con tutto quello che richiede la promozione di un disco, poi portarlo in tour, e sono stati due i tour dopo questo album. C'è stato un secondo ciclo di concerti poi nel 2012, dove è stata affiancata da Conan Mocassin, che con la sua band appunto è diventata la sua tour band, ed è per questo che poi è iniziata una collaborazione, anche per gettare le basi del nuovo lavoro proprio subito dopo. E abbiamo voluto metterci un altro pezzo sempre da Stage Whisper. L'abbiamo scelto perché appunto è il primo pezzo disco, infatti si chiama Paradisco. A testimoniare appunto anche dell'amore di Charlotte per la musica elettronica, di cui appunto ama la ripetitività, ma anche, e torniamo all'epoca dell'infanzia, una certa disco di stampo moroder. Dicevo prima di come Rest, la title track, sia proprio il pezzo centrale dell'album, quasi un pezzo cardine che poi dà luogo alla seconda parte del disco, che invece è più leggera, è più movimentata, è più danzereccia, potremmo dire, perché anche se c'è stato, diciamo, un anticipo di elettronica a tempo in Deadly Valentine, era comunque sempre un'aura un po' cupa. E a testimonianza di ciò, il pezzo successivo nell'album è Sylvia Says, che prende ispirazione da appunto le ispirazioni anche letterarie che ci sono state nella produzione di questo disco. Edgar Allan Poe, che anche le fece conoscere il padre un po' troppo presto, lei dice, per un pezzo che non è stato ancora pubblicato, ma prima o poi lo sarà. E poi Sylvia Plath, come metti un pezzo di poesie di Sylvia Plath per un pezzo disco? Sì. La citazione è della poesia Mad Girl's Love Song, una poesia che parla della soggettività del mondo dal punto di vista, dalla prospettiva personale della poetessa, in quanto il mondo esiste solo nel momento in cui lei sceglie di guardarlo. Quindi la canzone parla di una giovane ragazza ingenua che passa la sua vita a sognare ad occhi aperti per allontanarsi dal mondo così piatto, sciatto attorno a lei, chiude gli occhi come fa la narratrice della poesia, confinata nella sua casa tra i suoi libri, e non conosce il mondo che la circonda, ma non le importa perché trova sollievo e rifugio nel suo mondo di sogno che si è costruita. Guarda, il ritornello ha una somiglianza incredibile con Into the Groove di Madonna, non so se è stata una cosa consapevole o no, è solo rallentata, ma è uguale. E di questo accostamento curioso, perché appunto questo contrasto è una cosa voluta, insomma, tra Sylvia Plath e questo tipo di musica, lei dice: Sylvia Plath è stata una vera scoperta, perché io so che la poesia da cui ho preso le parole non ha assolutamente lo stesso vibe della musica, ma io l'ho usato perché mi suonava bene a me, parlando di una nuova vita come lettrice. Quindi è la sua scoperta, il fatto che lei abbia scoperto questa autrice. Cioè, mentre, vabbè, se tu leggi la sua poesia, c'ha un tono abbastanza disperato. Ritornando all'esposizione a letture e visioni magari non adatte all'età, come è successo a lei, soprattutto per mano del padre, lei dice che anche lei ha fatto lo stesso con i suoi figli, e anche soprattutto del fatto che sia stata instradata a cantare e recitare dai suoi genitori. Dice: io sono assolutamente grata che loro abbiano fatto questo, perché mi hanno dato una tale ricchezza che allo stesso modo io auguro una cosa del genere per i miei figli. Quindi è stato anche per questo che ha chiesto loro di partecipare ai suoi video. Loro non sono stati assolutamente entusiasti, si sono divertiti molto, e anzi la piccolina figura anche nell'altro video, Line With You, non so se l'ho già detto. Comunque c'è da dire, se anche Sebastian è stato scelto per il suo stile musicale abbastanza violento, c'è da dire che in questo disco c'è anche abbastanza ammorbidito, incorporando appunto elementi anche della, a parte l'indicazione di Charlotte, ma anche della cultura musicale, la storia musicale del proprio paese. E abbiamo voluto proprio attaccare questi due pezzi, che questa è un'altra eccezione di questa puntata, due pezzi di seguito dello stesso disco, perché l'inizio così stomping è simile a quello di Sylvia Says, e si tratta di un altro dei pezzi che già esistevano più o meno da prima, insomma, del grande cambiamento, la grande svolta nella produzione del disco. Cioè, fin dal 2011 esisteva questo pezzo, e questo pezzo è di Paul McCartney, quindi l'unico che non è stato scritto né da Charlotte né da Sebastian. Nel 2011 lei, non so, invita a cena Paul McCartney, e parlano, si incontrano, lei ovviamente timore reverenziale, però alla fine di questo pasto trova il coraggio di dire a Sir Paul: non è che per caso è una canzone per me, non è che magari potresti pensare a me per una canzone. Detto fatto, nel giro di qualche giorno via email le arriva un demo di questo pezzo, Songbird in a Cage, in cui lui cantava. Poi nella lavorazione del disco nel corso del 2015, il lavoro più concreto con Sebastian, questo pezzo è stato, insomma, destrutturato, scucito e ricucito per farlo, per adattarlo meglio al resto dell'album. È stato poi sottoposto a Paul McCartney, che ha approvato il prodotto, tanto è vero che negli ultimi, insomma, tocchi finali del 2016 dell'album è andata all'Electric Lady Studio di New York, dove ha suonato pianoforte, chitarra, batteria, mentre il resto del disco è stato prodotto dai due in un piccolo studio di Brooklyn. ma a ben guardare anche i testi non sono, il testo di questa canzone non è tanto alieno dal resto del contenuto dell'album. Sempre questo immaginario un po' cosmico, vuole attraverso il cielo, tutti i sensi che vacillano, adesso ti siedi e piangi alle ombre del soffitto. E sembra appunto quasi la ricerca dello stordimento dopo un grande dolore, un grande trauma, anche cercare stordimento in una notte un po' selvaggia. Vista quindi la presenza di Paul McCartney in questo disco, io ho pensato, devo mettere qualcosa, Paul McCartney o dei Wings o dei Beatles, e ho scelto un pezzo dei Beatles scritto da lui, che se Charlotte parla della sua infanzia, anche noi Mike FM, essendo autoreferenziali, parliamo della nostra. Tra l'altro poi abbiamo la stessa età io e Charlotte, e ho scelto un pezzo che mi ricorda tantissimo l'infanzia, che è stato uno dei primi pezzi, delle prime canzoni di cui io ho memoria e che cantavo inventandomi le parole. Prime sensazioni di struggimento, di malinconia, The Long and Winding Road, contenuto in Let It Be del 1970. È veramente uno dei miei primi ricordi musicali, insieme a Hal Stewart, alla radio. Sebbene c'è da dire che questa versione dell'album, una versione che Paul McCartney odia. La versione originale del pezzo fu registrata nel gennaio del 69 e fu questa versione che venne presa da Phil Spector, che vi aggiunse tutti questi archi, questi fiati, e Paul McCartney era assolutamente contrario, proprio schifato da questo prodotto, tant'è vero che poi ha addotto questo fatto anche una delle ragioni che hanno portato poi allo scioglimento dei Beatles, niente meno. E ho detto, beh vabbè, però posso mettere proprio la versione che a lui non piace? Ok, metto la versione che ricordo io dalla mia infanzia, però poi ci metto anche quella originale che lui poi ha ripreso e pubblicato in diverse altre release. E infatti ce l'abbiamo mixata. Ecco, una delle differenze principali è questo passaggio quasi parlato. E quindi nella lunga gestazione di Rest, prima del fine 2013, tra l'altro appunto questi giorni, l'anniversario della morte di Kate, e tra l'altro anche oggi è il compleanno di Jane Birkin. A long, long time ago. Don't keep c'era questo pezzo, il pezzo di Paul McCartney che abbiamo sentito prima, c'era la musica perlomeno di Rest proposta da Guy Manuel de Menchristo. E c'erano anche dei primi esperimenti fatti con Conan Mocassin. Di cui appunto rimangono due tracce nella composizione dell'album. Queste melodie buttate giù in un momento, in un periodo di ritiro, con Mocassin, appunto dopo che sono andati in tour insieme, hanno detto: dai, proviamo a fare qualcosa insieme, io suono la chitarra, tu provi a scrivere. E lei dice: io mi sono sentita di farlo, perché tanto lui non capiva il francese, quindi non poteva giudicarmi più di tanto. Sono andate nella sua casa in Bretagna e sono rimaste delle tracce di queste melodie. Infatti questo pezzo, Dans vos airs, in cui Conan Mocassin figura come coautore delle musiche insieme a Sébastien. È bellissimo secondo me questo pezzo. E come dicevo, non si parla solo della perdita delle persone amate, ma anche della propria famiglia, del proprio compagno. Infatti questo pezzo parla dei figli, della paura del passare del tempo, dans vos airs, nelle vostre espressioni. Forse si può sentire su questo pezzo più che in altri gli archi, spesso appunto quando si parla di questo disco vengono nominati i collaboratori e gli ospiti illustri per questo disco, e viene anche sempre nominato Owen Pallett nella sua attività professionale in cui eccelle, ovvero di arrangiatore e direttore, in questo caso delle parti di archi e di fiati. Quindi diciamo una prestazione d'opera. Ovviamente l'arrangiamento prevede anche un certo fattore creativo, ma appunto diciamo che la sua partecipazione è un po' a livello minore che non quella di altri che hanno proprio fornito delle canzoni. Lavoro meraviglioso comunque. Una canzone sul passare del tempo, perché c'è da dire che Charlotte odia anche il pensiero del tempo che passa. Ta-ta! Ho fatto una delle mie. Ci ho attaccato, probabilmente senza senso, la coda meravigliosa Mary Morrissey del Ciao che sono funny anymore, Mrs. Smarter 1985, perché ascoltando e riascoltando Dans vos airs, anzi proprio forse primissimo ascolto, ho pensato: ma questo tono, questo timbro, questo suono, cos'è che mi ricorda? E mi ricordava appunto The Smith. Yeah. giusto, a mettere qualcosa degli Smith ci sta sempre bene. E ritornando appunto alla collaborazione con Conan Mocassin in Stage Whisper, forse appunto per questo che dopo sono andate in tour insieme, c'era anche un pezzo fatto da lui, e questa molto carina e delicata, Out of Touch. E insieme ad altre collaborazioni con altri musicisti in Stage Whisper c'era anche un pezzo, Got to Let Go, fatto con Charlie Fink di Noah and the Whale. That's the only kind of touch, but I'll always be for you all the time. Che però successivamente è stato pubblicato come singolo, quindi lato A, la versione del disco con Charlie Fink, e la versione invece, un'altra versione fatta con proprio Conan Mocassin sul lato B. Questa è Out of Touch. Questa linea di basso, un po' Walk on the Wild Side, non ci avevo fatto caso. E quindi Conan Mocassin, con cui ovviamente si era creata una buona alchimia, anche perché andare in tour insieme o vai d'accordo o l'ha spronata a scrivere in francese, a scrivere per sé, e anche lui fa parte poi della scuderia della Because Music, di cui è appunto sussidiaria la Headbanger Records, ma anche la Fantasy di Errol Alkan, Danny Avery, Ghost Culture, mentre a Because Music fanno parte Sébastien Tellier, ovvero Dio, Little Dragon, Major Lazer, Cabambino, Django Django, Christine and the Queen e Sébastien, che nel 2011 aveva pubblicato il suo unico album finora, Total, non a caso, con questo suono appunto tipico, così violento, questo elettro brutale, ed è stato appunto per questo che Charlotte lo ha cercato per provare a sposare la sua voce esile con questo tipo di musica. Insomma, nonostante il primo incontro in cui appunto lui, ubriaco come tutti i timidi, diciamo svacca, lei gli dà una lista di indicazioni, ispirazioni musicali, film horror, per esempio il tema dello squalo che avevamo messo in scaletta ma abbiamo eliminato, poi appunto Shining, Carrie lo sguardo di Satana, eccetera, ma anche pezzi grandiosi, orchestrali, ma anche perché un po' sapeva che era quello che voleva, ma anche perché sapeva che sarebbero piaciuti a Sébastien, che infatti le rimanda dei demo di cui lei è assolutamente soddisfatta, e quindi capisce che è la cosa giusta da fare. E poi ovviamente c'era anche l'attività parallela di cinema, infatti proprio nell'estate-autunno del 2012 sono le riprese in Infomaniac, uscito poi l'anno dopo. e poi dopo la tragedia e la fuga letterale a New York, il lavoro si concretizza nel tutto 2015. E il pezzo successivo ad Anvoser è Le Crocodile, ed è anche questo uno dei pezzi abbozzati con Conan Mocassin. Diciamo che è come un film in cui c'è un tema musicale che più o meno viene riproposto in modi diversi. Anche il passaggio, questo passaggio di frasi musicali così. Anzi, tra l'altro qui ci si potrebbe cantare il ritornello di Paper Tiger a 78 giri, adesso che ci faccio caso. Comunque, Le Crocodile parla ancora dell'infanzia, un tempo appunto che ha mitizzato, e degli incubi che aveva lei da bambina e il rapporto che aveva con gli oggetti che per lei avevano un'anima, e questo è un'altra cosa che ci accomuna. Mentre appunto c'è la sorella che gli diceva che invece la loro infanzia non era stata affatto così bella e spensierata come lei se la ricorda. Adesso arriviamo al pippone delle critiche. Metacritic ha dato a questo, aggregando le 21 recensioni dei media specializzati, e ne è venuta fuori una media dell'8 tondo tondo, dal 6 al 9, non c'è niente che scenda sotto il 6, anche se magari The Skinny dice che ci sono troppi cambi di tono, l'Observer dice che lo stile alla meglio sulla sostanza, Musico MH dice che è quasi il vero debutto discografico, Lying With You influenzata dalle colonne sonore di Carpenter, un album definito dalla pena della perdita del lutto, però dice che alla fine è un album un po' deboluccio, ma trasuda classe e a volte è sorprendentemente bello. E per leggere parte delle recensioni ci teniamo in sottofondo uno dei pezzi di Sebastian tratto da Total del 2011, ovvero Tetra. Poi c'è il 6 di Record Collector che in tutta la recensione, nel titolo eccetera, chiama il disco Rise invece che Rest, ma comunque dice elettronica sicura ma non prepotente che pulsa sotto i sospiri cantati di Charlotte, che come sempre rende le collaborazioni qualcosa di personale. Poi c'è Consequence of Sound 6.7, notevole talento anche nel suo gusto impeccabile nella scelta dei collaboratori musicali. Rest, profondità nella semplicità, album incredibilmente personale, più crudi i testi, più incongrua la musica, quindi questo contrasto. Canzone di McCartney invece sembra una B-side dei Wings, sarebbe stato necessario un maggior lavoro di editing, ma probabilmente la natura personale delle canzoni ha reso dei tagli impossibili da fare. Nonostante ciò ci sono molti momenti preziosi. Charlotte Gainsbourg è evoluta come artista e il resto è una dichiarazione, un'affermazione imperfetta ma meritevole. Poi Exclaim 7, cruciale vulnerabilità, varietà di stile musicale, eurodisco, funk e pop, che serve per coprire un più ampio territorio emotivo o emozionale, direbbe Manuel. l'andatura, il pacing del disco e la lunghezza delle canzoni, ma in realtà a parte Deadly Valentine non ci sono pezzi lunghi, rendono Rest un grower, cioè quello, un disco che cresce ad ogni ascolto e che poi alla fine fa accomodare, adagiare l'ascoltatore tra i suoi strati sonori e nel lirismo personale dei testi di Charlotte Gainsbourg, che nonostante abbia vissuto tutta la vita sotto i riflettori, solo ora rivela il suo coinvolgente viaggio interiore. Poi Drowned in Sound 7, disco intimo ma non imbarazzante, come teme invece pensa che sia a posteriori Charlotte così schiva e defilata, ma doveva essere così impudico. Rest è parte Ninna Nanna e parte Elogio Funebre, perché il contesto, questa forse è la recensione che dice la frase proprio chiave, il contesto è fondamentale per capire le scelte di testo e di produzione musicale che altrimenti suonerebbero insomma strane o addirittura sdolcinate o kitsch. E siamo passati ad un'altra produzione del 2014. Nella colonna sonora di Nymphomaniac, uscito appunto l'anno prima, Charlotte canta Hey Joe di Jimi Hendrix, ma nel 2014 esce un remix di Sebastian, appunto perché la collaborazione era già bella che avviata. Ed è questa versione di remix che ci ascoltiamo. Rolling Stone invece dà un 7 e scrive proprio 7 righe veramente insulse. Poi c'è Spin 7, setoso e ipnotico, la voce di Charlotte col suo tono da confessione o cospirazione scivola fluidamente tra gli strati di arrangiamenti elettronici. Ring Ring Roses, elenco pietre miliari della vita dal primo respiro all'ultimo. Deadly Valentine, voti iniziali antiquati su sinuosa Eurodisco, famiglia, amore, morte, anche Songbird in a Cage, pure precedente, suona come un lamento. Intimità dell'album contrasta con la personale reticenza di Charlotte e lo stile compensa la carenza dei testi, perché in effetti c'è da dire che anche a livello di metrica i testi non sembrano un granché, ma non importa, impulso puro. Mojo e Uncut danno entrambi 8 facendo dei paragoni con l'attività artistica dei genitori. Poi The Guardian 8, il fatto che per la prima volta scrive testi la fa esprimere su una più ampia gamma di ruoli e tipi di musica. In passato c'era più coerenza, più piattezza, perché era esattamente quello che ti aspettavi da R, Cocker e Beck. Invece con Sebastian c'è totale libertà. E c'è anche una cosa curiosa da dire: quando lei nomina i dischi precedenti non dice i dischi con Air e con Beck, ma dice di Air e di Beck. Invece Sebastian, che è stato scelto appunto per questo suo suono un po' violento, grasso, tipico di un certo tipo di suono, anche ripreso dai Soulworks nei vari remix, ripreso da Steve Aoki, Justice e anche Bloody Beetroots, è stato scelto appunto per poter esprimersi in maggiore libertà. Poi c'è The Quietus 8, IRM era praticamente un disco di Beck con un'altra voce. 55, troppa attenzione sui testi Jarvis Cocker, insomma sempre uomini a fare cose per lei. E quindi anche il timore, visto i nomi dei collaboratori che erano stati annunciati, che anche in questo caso lei fosse messa un po' da parte, un po' schiacciata, visto che ha una fragile identità. E invece no, è assolutamente lei che tiene le redini in questo disco. Ma arriviamo al pezzo di chiusura, che è il trionfo, la summa, il ciclo della vita che si chiude, un rischio preso. Sebastian gli ha detto: ma sei sicura che vuoi mettere un testo così triste? Qui racconta proprio la visita al cimitero, la tomba di sua sorella. L'esoxalis si chiama, suona un tipo di fiore. Dice: ma ti prendi la responsabilità di mettere questo testo con questo ritmo così disco? E lei lo ha fatto. L'ultimo pezzo su Kate, Fiori sulla sua tomba, una visita al cimitero in cui lei le racconta dei morti, la storia dei morti, delle tombe vicine, è appunto il contrasto più grande tra musica trascinante ed energica e testi cupi. E lei ce n'è assolutamente assunta la responsabilità. Perché non è un disco triste, lei dice, ma non è stato neanche terapeutico, non è servito a far passare il dolore, anzi ho provato piacere a scrivere del mio dolore. E infatti alla fine di questo pezzo c'è una breve pausa di silenzio e poi una registrazione casalinga, probabilmente la sua figlia piccola, che le canta la canzone, la filastrocca dell'alfabeto, anche qui il ritorno della filastrocca, ma che diventa appunto una musica trionfale, nel senso che comunque la vita continua e trionfa. Poi De Quietus dice che il passaggio continuo tra francese e inglese evita la staticità del disco e coerentemente con Charlotte che passa tra cinema e musica, filastrocche infantili, voti nunziali e canzoni di cartoni natalizi. Quindi insomma fonti svariate che vengono spezzettate, riusate, ripresentate in modo imprevedibile. Un risultato seducente, anticonvenzionale, completamente suo, il disco più francese del secolo. Q-Mag 8, buon gusto naturale e più profonda eco emotiva. All Music 8, Charlotte esperta nell'affrontare ed esprimere emozioni difficili nei suoi ruoli cinematografici e così fa in questo album. La canzone Rest è il pezzo centrale del disco, che appunto fa da cardine per passare alla seconda metà più leggera ed audace, passaggio da tristezza al ritorno di una certa gioia. Un musicista meno capace non saprebbe gestire questo shift tra ballate funeree e pop dance festosa, ma Charlotte fa suonare tutto naturale e anche più rilevante e significativo rispetto alla sua produzione precedente. The AV Club 8.3, Charlotte forza creativa principale, Sebastian ha lavorato sul materiale proposto da lei, riferimenti cinematografici, canzoni dark rese in grande scala con sinte eccessive e disco beat alla Moroder che camuffano i temi pesanti dei testi. E infatti era proprio l'intenzione di Charlotte di unire insomma una musica forte con una voce debole, questo desiderio di creare distanza, il contrasto negli stili. Charlotte si rivela un'autrice incredibilmente vulnerabile e l'influenza dei famosi genitori la intimorisce di meno. The 405 8.5, fragilità come maggior punto di forza in ogni attività. Infatti appunto ha cominciato a disegnare, fotografare, filmare, necessità di esporre creativamente il dolore, ma non per guarire. Poi Pulse Magazine 8.6, i dischi precedenti sono sempre stati seducenti, avanti, insomma illuminati, ben prodotti e registrati in modo impeccabile, però si affidava sempre alle parole altrui. La produzione di Sebastian che dà qualità cinematica a dei pezzi elettropop, appunto per me questo disco è proprio come un film. Rest è imperfetto ma sufficientemente intrigante da attirare l'attenzione. Ed ora che mette se stessa nelle canzoni, il suo lavoro è più pesante, più complesso, più coinvolgente. Sarà interessante cosa farà in futuro e soprattutto con chi. Si spera che continui questo percorso personale, ma magari no, dico io, magari in questo disco ha detto tutto quello che doveva dire lei, adesso magari continuerà ad affidarsi a qualcun altro. Poi Pitchfork 8.7, Best New Music, Charlotte Gainsbourg, fascinazione per l'oscurità, per esempio i suoi ruoli nei film, desiderio di fare qualcosa di tutta la tristezza dopo la morte di Kate, e questo è diventato il centro del disco. Rest è intimo in modo bruciante e fantasticamente oversized. Canzoni che affermano la vita anche in faccia alla morte, trasformano la sofferenza personale in pubblico spettacolo. Non solo rivela il suo dolore, ma lo rende monumentale. Ci stende davanti un tappeto rosso e invita la gente a guardarlo, perché rifiuta di essere zittita dal lutto ed essa arriva alla fine. Charlotte rifiuta di essere zittita dal lutto del padre, non poteva parlare perché sommersa da quello altrui, ma invece di quello di sua sorella, e quindi del padre. Ora, a distanza di 25 anni, riesce a parlarne. Invece in questo album, come dice The Line of Best Fit 9, il voto più alto, Charlotte Gainsbourg abbraccia appieno la sua vita, la sua musica, la sua fama e anche la sua posizione. Altra metà, la seconda metà dell'album, Cosmic Funk, che poi finisce con appunto le Zoxalis, titoli di coda tipo Missione conclusa, per chiudere il cerchio, appunto questa filastrocca che poi viene avvolta da questo crescendo trionfale. Però Rest non è un finale, ma un nuovo inizio, un disco che evidentemente noi abbiamo amato tantissimo e continuiamo ad ascoltare ossessivamente, ripetutamente. Ciao, da Claudia Mighty Mouse.